redditi alla fine del 2010 sono più o meno ai livelli del 2000. Del 2000? Anni, del 2000, esattamente. In termini reali, cioè reali, al netto dell'inflazione? Esattamente. E quindi negli ultimi due anni fondamentalmente si sono persi 8 anni di crescita dei redditi delle famiglie. Redditi che erano comunque cresciuti meno del prodotto interno lordo perché la quota dei profitti era in qualche modo aumentata. La notizia che non è buona per le famiglie che emerge da questi dati è anche che appunto la propensione al risparmio continua a scendere, quindi per tenere dei livelli di consumo considerati desiderabili da parte delle famiglie si riduce l'accumulazione di capitale che era stato fatto nel passato e quindi si attinge appunto al risparmio. Il dato in qualche modo positivo è che invece i profitti, la quota dei profitti delle imprese è in salita proprio a partire dall'inizio del 2009, quando avevano raggiunto il minimo storico. Invece negli ultimi 2 anni, 1 anno e mezzo, la quota dei profitti è ricominciata a salire da circa il 39% a circa il 42%. Questo è un segnale che le imprese hanno evidentemente superato la fase critica, ma non necessariamente questo si riflette in investimenti molto più alti. Certamente gli investimenti stanno crescendo, ma non sufficienti a tirare tutta la crescita. Mi scusi, Presidente, mi faccia capire. Se aumenta la quota dei profitti delle imprese, ma cala il risparmio degli italiani e cala di fatto anche il potere d'acquisto, perché se aumenta la spesa delle famiglie e cresce più del reddito, non ci vuole un genio per capire che cala il mio potere d'acquisto. Siamo tornati al livello del 2000, questo cosa vuol dire? Che non c'è ridistribuzione dei profitti realizzati dalle imprese? Che le imprese, teoricamente, secondo la teoria economica, con maggiori profitti dovrebbero fare più investimenti e quindi assumere di più e questo generare redditi per le famiglie. Siamo ancora